Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Sviluppare un sistema di sensori per il monitoraggio dei parametri ambientali all'interno di abitazioni, scuole e uffici, ma con due importanti caratteristiche peculiari. Saranno sistemi di monitoraggio autonomi e quindi non richiederanno una fonte di energia esterna e saranno biodegradabili. Questo è l'obiettivo del progetto Sensible, sensori autonomi e biodegradabili per il monitoraggio ambientale negli edifici, progetto che l'Enea sta conducendo nell'ambito del suo programma Proof of Concept in partnership, in questo caso con un'azienda che si chiama Promete. Ne parliamo con Giovanni Landi del Laboratorio di Soluzioni Energetiche Integrate dell'Enea di Portici, quindi vicino Napoli, nonché coordinatore di questo progetto. Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie mille. Allora, intanto perché dei sensori biodegradabili? Sì, l'idea è molto semplice, quello di realizzare dispositivi, in questo caso i sensori, che siano in grado di essere facilmente smaltiti dopo il fine vita del dispositivo. Questo naturalmente ci permette di realizzare una tecnologia che sia ecosostenibile e che abbia un'impronta molto più green da questo punto di vista. Un altro aspetto importante è poi legato al fatto che questi dispositivi, durante la loro fase di degradazione, non rilasciano sostanze nocive nell'ambiente che non siano poi sostanzialmente pericolose per gli esseri umani e per tutto l'ecosistema. Che tipo di materiali utilizzerete per fabbricare questi sensori? Perché anche questo è un aspetto molto interessante del vostro progetto. Sì, è di fondamentale importanza perché i materiali che utilizziamo sono biomateriali ottenuti da fonti rinnovabili. Un esempio molto semplice è quello di realizzare dispositivi fatti con gelatina. La gelatina è un biopolimero che si ottiene dall'idrolisi controllata delle ossa della carne dei bovini dovuta allo scarto industriale. La colla di pesce praticamente. Sì, infatti. Quindi il nostro scopo è quello di utilizzare non materiali già di sintesi già fabbricati, ma in realtà ottenendoli da rifiuti. E questo permette di avere uno sguardo sulla cosiddetta circolarità e sulla sostenibilità di questi dispositivi e di questi, sistemi. Non dimentichiamo che poi questi, dovendo essere smaltiti, avendo una seconda vita, possiamo allungare i tempi, i costi, diciamo ridurre i costi e quindi di conseguenza avere anche un dispositivo che costi poco, che sia efficiente, che sia ecosostenibile. Ecco Giovanni, ci hai parlato della colla di pesce, ma insomma ce ne sono anche altri forse, no, di questi prodotti da cui partirete che vale la pena citare perché li conosciamo. Sì, infatti per esempio noi abbiamo sviluppato anche un modo per poter estrarre, ad esempio, dall'industria alimentare. Per esempio, io abito a Salerno e quindi c'è la mozzarella di bufala e di solito è possibile realizzare, estrarre la caseina e in questo caso immetterla nel biomateriale e questo nel nostro blend. In questo modo riusciamo a realizzare un dispositivo che venga fabbricato dagli scarti dell'industria, diciamo, alimentare legata in questo caso alla produzione del formaggio. Poi per esempio so che state puntando su altri materiali come quelli che diciamo derivano dalla filiera del cornflakes, anche in questo caso delle proteine. Ecco, alla fine questi sensori fatti quindi a partire da questi materiali direi di scarto della filiera agroalimentare, come verranno posati? Cioè saranno dei sensori normali che si usano come tutti gli altri o cos'altro? Sì, infatti sono dei semplici sensori i quali verranno naturalmente allo stato iniziale messi in un packaging, un box, una scatola e in questo caso il sensore, essendo un sensore autonomo, riuscirà a funzionare senza essere alimentato e verrà posato dentro le stanze, quindi nelle varie abitazioni. Se facciamo ad esempio un caso tipico di un'abitazione da 80 metri quadri con camere da letto, living e così via, noi, la nostra idea è quella di posare almeno dai 9 ai 10 sensori che avranno un costo molto basso perché naturalmente sono ottenuti da scarti industriali e quindi questi dispositivi poi lavoreranno per un tempo di vita che può andare da mesi fino ad arrivare a qualche anno e poi successivamente, una volta che hanno finito di lavorare, possono sostanzialmente essere messi nella pattumiera. La particolarità Nel è che biodegradabile. nel biodegradabile, sì. E la particolarità è che naturalmente questi materiali sono anche adesivi e quindi di conseguenza sono facilmente applicabili su superfici, sono atossici perché sono Certo. ottenuti da fonti rinnovabili e questo permette una diffusione molto più veloce Quindi ed a un costo ragionevole. potrebbero essere anche appunto messi su degli adesivi, su delle etichette, quindi installati in quel modo in futuro. Ecco, a proposito di futuro, come si svolge il progetto e oggi a che punto siete? Sì, il progetto si svolge in due fasi. C'è una fase iniziale in cui noi dobbiamo sviluppare il dispositivo, il prototipo. Infatti, il progetto è proof of concept. Noi partiamo da abbiamo un prototipo funzionante in parte in laboratorio, ma la cosa fondamentale è che dobbiamo sviluppare l'elemento di alimentazione, perché questi sensori sono sensori autonomi e biodegradabili. Quindi sulla biodegradabilità non ci sono problemi perché partiamo da materiali rinnovabili. Sullo sviluppo di batterie, di capacitori o generatori di corrente che diano energia, in questo caso noi stiamo sviluppando delle batterie o pseudobatterie che utilizzano questi biomateriali sia come binder, quindi come leganti, sia come elettroliti, quindi tendenzialmente il materiale riesce attraverso reazioni redox Chimiche a con produrre l'energia. l'energia elettrica, certo, la tensione, Sì, sì. infatti. E nella questa prima fase l'idea è di integrare il sensore e la batteria e sviluppare quindi un dispositivo che sia autonomo e integrando questi due elementi. Nella fase successiva, nella fase 2, con l'aiuto naturalmente di Promed, di questa azienda, noi tenderemo a prendere questo prototipo e portarlo a fare un trasferimento tecnologico con lo scopo di produrre più dispositivi che poi possano in qualche modo entrare a far parte di una rete distribuita. Quindi poi lì il problema nascerà soprattutto su come far comunicare questi dispositivi. Infatti nella fase 1 noi utilizziamo una strumentazione standard, cioè cavi collegati. Nella fase 2, se esiste, riusciamo a sviluppare questo prototipo, noi andremo ad effettuare una connessione a questi dispositivi tramite Wi-Fi e quindi a quel punto avremo poi tutto il mondo delle smart home e della connettività estesa. E vabbè, allora insomma avremo la colla di pesce che parla via wifi con i cornflakes. Va bene, grazie, grazie Giovanni Landi. E Grazie a voi per avermi invitato. allora ci fermiamo qui, cari ascoltatori, a domani sera. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.